Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, ci stiamo avvicinando alla Brexit. Avete appena ascoltato anche il promo che ricorda la lunga diretta di Radio 24 che inizierà alle 9 di sera di giovedì, andrà avanti fino all'una di notte, poi dall'alba, ammesso come sembra che i dati arrivino a notte fonda o addirittura all'alba, perché non c'è nessuna certezza sulla velocità dello spoglio dei britannici per quello che riguarderà il referendum di giovedì. Si vota tutto il giorno di giovedì e quindi è possibile che già che ancora all'alba non si sappia il risultato. Se ne parla chiaramente, quando mancano 48 ore se ne parla dappertutto. Oggi c'è anche la Yellen, la numero uno della Federal Reserve, che ha detto: attenzione, un'uscita della Gran Bretagna avrebbe significative ripercussioni economiche, pone rischi di stabilità finanziaria. Lo sta dicendo la numero uno della Federal Reserve, e aggiungendo che comunque c'è una considerevole incertezza sulle prospettive economiche che resta a livello mondiale. E ha aggiunto la Yellen: ci muoveremo con cautela sui tassi di interesse, gli aumenti saranno graduali. E questo per quello che riguarda la Federal Reserve. Ha parlato anche Mario Draghi, quindi Banca Centrale Europea. Siamo pronti ad agire su tutte le urgenze. Senza i nostri stimoli la crescita comunque dell'area euro sarebbe più bassa e l'inflazione sarebbe ancora più bassa. Il pacchetto di marzo ha mitigato i rischi. E poi la ripresa economica nell'area euro è moderata. L'inflazione resterà bassa anche nei prossimi mesi. Partiamo da qui, nel giorno in cui Draghi ha anche incassato, devo dire che era abbastanza atteso da parte della Corte Costituzionale tedesca, il via libera al piano anti-spread. Partiamo da queste dichiarazioni di Draghi, perché poi su questo, anche su questo, si stanno muovendo in maniera meno vigorosa rispetto a ieri i mercati: più 0,50 Milano, più 0,75 Francoforte, più 0,80 Parigi, più 0,50 Londra, euro su dollaro quota 1,12. Sentiamo Draghi su ripresa e inflazione. The recovery of the euro area economy gained momentum at the start of the year. La ripresa della zona euro ha segnato uno slancio all'inizio dell'anno. Ci aspettiamo che proceda a un passo moderato, ma costante, sostenuta da una solida domanda interna e dall'efficace trasmissione delle nostre misure di politica monetaria all'economia reale. I consumatori stanno beneficiando dei prezzi ancora relativamente bassi del petrolio e del miglioramento delle prospettive del mercato del lavoro. Allo stesso modo, gli investimenti stanno aumentando. Guardando avanti, secondo le previsioni di giugno, il PIL dell'area euro è atteso in crescita dell'1,6% quest'anno e dell'1,7% nei prossimi due anni. Allo stesso tempo, le dinamiche dell'inflazione restano piuttosto sottotono. Il tasso di inflazione era leggermente negativo a maggio e ci attendiamo resti a un livello basso anche nei prossimi mesi. L'inflazione dovrebbe poi salire verso la fine dell'anno. Le attese sono per un ulteriore aumento dell'inflazione all'1,3% nel 2017 e all'1,6% nel 2018. Inflation is expected to increase further to 1.3% in 2017 and 1.6% in 2018. E parleremo di Brexit, la stiamo affrontando da diversi punti di vista. Oggi sarà la volta proprio del punto di vista statunitense. Beh, insomma, è l'alleato speciale da sempre, storicamente, il rapporto l'asse atlantico Gran Bretagna-Stati Uniti, che se dovesse uscire l'Unione Europea, la Gran Bretagna dall'Unione Europea, dovrebbe essere teoricamente ancora più rafforzato, ma la Casa Bianca sta premendo, o meglio sta facendo numerose dichiarazioni affinché la Gran Bretagna non esca dall'Unione Europea. E voglio anche rispondere ad alcuni ascoltatori: non vogliamo mettere paura a nessuno, anche perché qua obiettivamente insomma nessuno vota a favore o contro la Brexit, però non possiamo neanche non dare le notizie, perché se tutti gli organismi internazionali economici, poi uno può dire chi se ne frega non li ascolto, ma se le banche centrali di tutto il mondo, gli organismi economici di tutto il mondo si dichiarano preoccupati per l'eventuale vittoria dei Leave nel referendum, noi dobbiamo dare la notizia, non è terrorismo, anche perché, ripeto, nessuno vota in Italia. E a proposito, anche il numero uno dei cosiddetti speculatori, oltre che filantropi, e mi riferisco a George Soros, colui il quale guadagnò miliardi dalla cacciata della lira e del pound dallo SME, qualcuno se lo ricorderà, ha detto: attenzione, un voto per la Brexit giovedì potrebbe significare chiudere la settimana con un venerdì nero in borsa. Tra l'altro, Soros ha continuato dicendo che se la Gran Bretagna dovesse uscire dall'Unione Europea, un simile shock renderà i britannici più poveri, produrrà serie conseguenze sulle persone comuni. Troppi credono, scrive Soros, che è, insomma, uno dei più potenti finanzieri americani, che votare in favore di un'uscita dall'Unione Europea non avrà effetto sulla loro personale posizione finanziaria. Ma questo è un wishful thinking, quindi una speranza, perché ci si concentra soprattutto sui rischi per la valuta. Ma se vince l'Eve, dice Soros, c'è da attendersi una svalutazione più grande e distruttiva di quella del settembre 1992, quando, aggiunge, io fui abbastanza fortunato da fare profitti significativi, una montagna di soldi fece, per gli investitori del mio hedge fund a spese della Bank of England e del governo britannico. Andiamo sulle notizie invece italiane, al di là della Brexit, di cui ci occuperemo nella seconda ora del programma, ripeto, il fronte statunitense, ma non solo. Per quello che riguarda gli altri temi che tratteremo, ci occuperemo di Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, per due, infatti il titolo potrebbe essere Veneto e le banche, perché Popolare di Vicenza è sotto di nuovo perquisizione della Guardia di Finanza, mentre su Veneto Banca domani è l'ultimo giorno per l'aumento di capitale. E devo dire che, insomma, dalle notizie che abbiamo, hanno aderito all'aumento del capitale l'1%, per cui è stato coperto per l'1%, si va tranquillamente, no, ma si va sicuramente sì, verso l'ingresso del Fondo Atlante, perché la vicenda è identica alla fotocopia di quanto capitato già per la Popolare di Vicenza, e quindi il Fondo Atlante dovrà avere una partecipazione intorno al 99%. Da questo punto di vista, secondo i nostri calcoli, se il fondo dovrà impegnare un altro miliardo di euro per entrare anche in Veneto Banca, al fondo a questo punto restano come portafoglio a disposizione solo 500 milioni di euro per future eventuali ingressi, soccorsi negli aumenti di capitale. Quindi, senza essere troppo pessimisti, ma diciamo che la dotazione del fondo Atlante con Veneto Banca e Popolare di Vicenza si è, non dico quasi esaurita, ma è vicino a essere esaurita. E dicevo, di questo parleremo, avremo anche altri interventi. Chiaramente vorrei dare un aggiornamento sui mercati finanziari, visto che l'ho lasciato in sospeso. Mezzo punto percentuale per Milano, lo 0,90 per Parigi, dicevamo, lo 0,30 per Francoforte, Londra più 0,55, Saipem più 3,5, Popolare Emilia Romagna più 2,80, Intesa San Paolo più 2,5, Ubibanca più 2,40, Generali più 1,70 come Mediobanca e Mediolanum, Jux, Net-a-Porter più 1,5, Recordati più 1,20 come ST Microelectronics, Eni più 1,1, Unipulsai più 0,70. CNH Industrial invece perde 2,40, Monte dei Paschi l'1,60, Tenaris l'1,5 come Ferragamo, Eterna l'1% il calo di A2A e di Poste Italiane. Devo dire che proprio mentre si va vicino alla scadenza di Brexit, i mercati ieri hanno creduto subito in apertura di settimana, hanno festeggiato tra virgolette il recupero di coloro i quali voteranno no alla Brexit, quindi il Remain. Oggi vari organi di stampa in Gran Bretagna citano addirittura 7 punti di vantaggio per il Remain. In realtà la media dei sondaggi vede ancora se prendiamo la media degli ultimi giorni dei sondaggi, vede ancora un testa a testa in realtà. Ripeto, gli alliberatori e quelli William Hill scommettono ampiamente per una vittoria dei Remain, quindi dei no alla Brexit. Su questo comunque si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore con Alessandro Platerotti. Il conto alla rovescia più importante degli ultimi 20 anni è cominciato. Tra poco più di 48 ore i cittadini inglesi andranno infatti alle urne per esprimersi sulla permanenza della Gran Bretagna nell'Unione Europea. Anche se dopo mesi di tensione e di scenari apocalittici, i mercati finanziari sembrano ora dare per scontato che la maggioranza dei voti sarà favorevole alla permanenza in Europa, le incognite per borse e valute restano in realtà ancora elevate. La prudenza è d'obbligo sia che vinca il sì alla UE, sia che vinca il no. Una vittoria risicata per il fronte europeista non ridurrebbe infatti i rischi di altre iniziative simili nel resto d'Europa, riportando i mercati finanziari sul lotto volante e soprattutto in uno stato di incertezza sulle prospettive future, senza contare che anche in caso di una vittoria dei sì alla UE, le polemiche su quanto è accaduto negli ultimi 12 mesi potrebbero addirittura peggiorare la situazione. L'Europa ha promesso infatti agli inglesi più autonomia e più potere in cambio della loro permanenza a Bruxelles, arrivando persino a concedere a Londra un diritto di veto su qualunque futura iniziativa europea di integrazione politica della UE. È evidente che si creerebbe così non solo un precedente che altri potrebbero invocare, ma anche una chiara discriminazione ai danni di altri paesi, tra cui il nostro, che da anni chiedono inutilmente regole meno pesanti e più flessibilità. Che vincano i sì o i no, insomma, il danno è fatto. C'è poi un'ultima considerazione. Da sempre c'è il luogo comune che sono i mercati a condizionare la politica. Brexit dimostra il contrario. Ogni sondaggio, ogni variazione di pochi punti percentuali tra sì e i no è in grado di far cadere la borsa e la sterlina, destabilizzando tutti i mercati mondiali. Come dire, se non altro, dei luoghi comuni e delle vecchie certezze, questo referendum le ha già fatte cadere. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E tra l'altro va detto che in effetti quel ragionamento che si farà adesso è troppo presto, ma da venerdì in poi, è che anche quando dovessero vincere, sono d'accordissimo con Alessandro Platerotti, i Remain, il tema poi resta sullo sfondo, al di là del passo falso di Cameron, che non aveva capito che stava un po' come un apprendista stregone, stava scatenando qualunque cosa, pensava di risolvere problemi interni, ma non si potrà archiviare il tutto dicendo bene, adesso i britannici restano in Unione Europea, perché oggettivamente la gestione dell'Unione Europea, di cui Bruxelles ha grandissime colpe, e i paesi più pesanti in Europa hanno grandissime responsabilità. Non si può essere nazioni leader in Europa e non assumersi responsabilità di dove è arrivato il consenso verso l'Unione Europea, cioè i minimi storici in tutti i cittadini dell'Unione Europea, a maggior ragione dell'area euro. Per cui ognuno si assume la responsabilità. Qualcuno ha guidato questa Europa in questi anni, diciamo da quando è scoppiata la crisi? Qualcuno ha avuto un peso più alto di altri, come nella Fattoria degli animali di Orwell? Qualche animale è più uguale di altri? Sì, si chiama Germania. Allora, sarebbe bello sentire in Germania una riflessione su come la guida tedesca, l'Europa a trazione tedesca, con un'insipienza francese, per carità, con Spagna e Italia incapaci di mettersi d'accordo, che tutto quello che volete. Ma insomma, che ci sia un paese che questa Europa l'ha diretta, se non guidata formalmente, ma l'ha diretta, e come se l'ha diretta, uno dovrebbe per correttezza anche ammettere che forse qualcosa è stato sbagliato, oppure parliamo di un successo. L'unica area che non si sta riprendendo con vigore è l'area euro, ci sono paesi in estrema difficoltà e l'Unione Europea nel suo complesso vede il tasso più alto di disaffezione da parte dei suoi cittadini. Boh, io qualche domanda me la farei. Andiamo invece a casa nostra, vedo molte domande al 349-238-6666, sia su come sms che come whatsapp sulla Popolare di Vicenza, Veneto Banca, un po' di pazienza, vi arriviamo. Invece oggi si è tenuto all'Assemblea Annuale del Sistema Moda Italia, è intervenuto il Presidente di Confindustria Vincenzo Bocce, il quale ha detto attenzione sulle riforme, non rallentare sulle riforme economiche. Non dobbiamo rallentare su una grande stagione di riforme economiche. È evidente che il governo, quando ha realizzato alcuni strumenti come la Sabatini, superammortamenti, lo stesso Jobs Act, il sistema ha reagito. Rallentare su questa dimensione significa ritornare indietro, perché siamo a una fase di inversione di tendenza, non possiamo parlare di ripresa, dobbiamo quindi accelerare sulla stagione di strumenti e di riforme economiche. E poi il tema dei contratti, perché il governo nelle settimane scorse ha detto chiaramente, attraverso il ministro Calenda e il presidente del Consiglio Renzi, a Confindustria e sindacati: ok, andate avanti voi sul nuovo modello, sull'accordo, sul nuovo modello contrattuale, ma fate presto. In ballo c'è un modello che nelle intenzioni di Confindustria dovrebbe avere, sulla falsariga di quello che è il modello tedesco, visto che poco fa parlavamo di Germania, una maggior forza nella contrattazione di secondo livello, quella aziendale, quindi legare l'aumento dei salari, i premi salariali alla produttività, e invece lasciare alla contrattazione nazionale il ruolo di cornice o di tutela di casi più piccoli. Oggi a domanda su quando si incontreranno sindacati e Confindustria, Boccia ha chiarito che stiamo definendo una data per il primo incontro, però sarà importante prima vedere la trattativa in corso per il rinnovo del contratto nel mondo metalmeccanico e quindi con Federmeccanica. Stiamo definendo una data per un primo approccio. Chiaramente abbiamo già detto che aspettiamo prima la chiusura dell'accordo, speriamo, che ci auspichiamo chiaramente, con Federmeccanica, perché siamo in una fase ormai accelerata di stesura contrattuale ed è inopportuno, diciamo, affrontare la questione su queste regole. È evidente che ci sono anche altri capitoli che abbiamo anticipato in assemblea pubblica. Adesso vediamo al primo incontro di stabilire un calendario di azione comune. Cambiamo tema invece, perché oggi sono arrivati i dati dell'autorità dell'acqua, autorità dell'energia sulle tariffe acqua. Allora, la spesa media per l'acqua di una famiglia in Italia, una famiglia tipo di tre persone, è stata di 249 euro l'anno, una crescita del 4,5% nel 2015. A fronte di investimenti pianificati comunque per il quadriennio 2014-2017 di quasi 6 miliardi di euro. Il valore medio, appunto, è frutto però di situazioni molto diverse. I prezzi dell'acqua più elevati si trovano al centro Italia, 310 euro, e il nord ovest invece a quelli più bassi, 200 euro all'anno di media di bolletta. E le differenze sono evidenti anche analizzando gli investimenti da finanziare attraverso le tariffe, perché sono investimenti più alti al centro, 186 euro per abitante, oscillano tra i 130, diciamo sui 130 euro nel nord-est e nel nord-ovest, e scendono a 70 euro al sud nelle isole. Sentiamo Guido Bortoni, che è il presidente dell'autorità energia, sulle tariffe proprio dell'acqua. A fronte di una variazione media dei corrispettivi rispetto all'anno precedente, pari al 4,3% nel 2014, al 4,5% nel 2015, gli investimenti quantificati per gli stessi anni evidenziano una crescita particolarmente elevata. Rispetto al 2012, nel 2015 si registra un valore superiore a 1,5 miliardi di euro, più 55%, per un ammontare complessivo pari a quasi 6 miliardi di euro nel quadriennio 14-17. È un risultato apprezzabile, che segnala un'inversione di tendenza attesa da molti anni, ma a oggi ancora insufficiente rispetto a quelle che sembrano essere le effettive esigenze di ammodernamento e di sviluppo dell'infrastruttura idrica italiana. Andiamo adesso a parlare, dopo il metro, pubblicità, di Veneto e banche. Però una notizia la voglio dare anche perché venerdì, con il commento alla Brexit, avremo un lungo speciale, salterà, diciamo, la poco invidiabile classifica di Focus Economia, ma tornerà, non vi preoccupate. Insomma, abbiamo dato più di uno spunto al neo sindaco di Roma, quindi Virginia Raggi, sull'ATAC, e continueremo a darne. Però io voglio dire, io veramente non so, ma sorrido, perché io mi chiedo come possono aver fatto quei 16 dipendenti indagati, tutti in servizio negli uffici del distretto della ASL nel comune di Maddaloni, Caserta, no? Che il giorno in cui il Consiglio dei Ministri approvava all'interno della riforma della pubblica amministrazione il licenziamento immediato per i furbetti del cartellino, loro, non quelli che timbrano e non vanno al lavoro, loro non solo il giorno stesso, quindi fregandosi bellamente, facevano i furbetti del cartellino, ma soprattutto timbravano, e se qualcuno le ha viste, mostravano anche il dito medio alla telecamera. Ora io dico, va ben tutto, però ma te la meriti comunque, ma sei proprio un deficiente, lasciate, perché sai che il Consiglio dei Ministri quel giorno deve approvare il decreto, fai anche il gestaccio, è il senso di impunità, giustamente, tanto la sanità al sud funziona bene, no? Per cui immagino che nella ASL del comune di Maddaloni sia un centro di eccellenza in cui non erano necessari i 16 dipendenti, adesso non lo saranno più, perché l'ASL di Caserta ha avviato per fortuna le procedure per il licenziamento, erano già state annunciate, sono 16 tra dipendenti, medici e infermieri, indagati per truffa ai danni dello Stato. Okay. Tra l'altro 9 sono finiti gli arresti domiciliari, così imparano, 7 sono stati raggiunti dal provvedimento cautelare di sospensione della professione, 5 indagati tra l'altro avevano il ruolo di funzionario pubblico, tra questi i 2 responsabili del Dipartimento di Medicina Legale. Ora io su questa notizia vorrei fare un bel applauso, perché è stato avviato l'iter di licenziamento, dovete andare a casa e quei 16 posti verranno presi da qualcuno che voglia di lavorare. E poi voi trovatevi un lavoro nel privato dove accettano volentieri che si falsifichi la timbratura e magari si facciano anche gestacce la telecamera mentre la si... Figurate, il privato è pieno di posti così. Andate a mandare i vostri curricula nel privato. Troverete ampie risposte. A proposito di privato, ne parliamo, ma questo è un privato. Ne parliamo dopo il metodo e la pubblicità. Guardia di finanza a Veneto Banca, a Popolare di Vicenza, e Veneto Banca che verrà salvata anch'essa dal Fondo Atlante. 349-238-6666 per sms e whatsapp dopo il metodo. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Focus Economia. Minuti. Allora andiamo con questa pagina lunga di Veneto e Banche. Partiamo dalla Popolare di Vicenza, perché lì abbiamo aggiornamenti anche di nuove perquisizioni della Guardia di Finanza. E se ho ben capito, questa mattina i finanziari, nella sede centrale della Banca Popolare di Vicenza, i finanziari stanno eseguendo un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza che è in corso, appunto, l'inchiesta sulla gestione dell'istituto di credito. Il filone principale si riferisce al periodo 2012-2014 ed è quello in cui, lo ricordo ogni volta, la banca allora guidata da Zonin fa 2 aumenti di capitale e porta le azioni prima a 43 euro e poi a 62, dando gli aumenti di capitale vengono fatti perché si convincono i correntisti e non solo ad aderire all'aumento di capitale. Come si convincono? Dicendo: se vuoi il prestito devi comprarti un po' di azioni col nuovo prezzo a 62 euro. E in alcuni casi c'è anche l'ipotesi che alcuni finanziamenti siano stati dati apposta per far comprare le azioni, peggio mi sento, con il risultato che il titolo non era liquido, nel senso che non era trattato sul mercato nessun listino, quindi una volta acquisito a un valore del tutto arbitrario, perché almeno in borsa, con tutti i difetti che ha la borsa, tu non puoi quotare un titolo al valore arbitrario perché ti crolla un secondo dopo, invece lì continuiamo a dire 62 euro e mezzo, poi si scopre che quando vuoi vendere non lo riesci a vendere perché non c'è nessun compratore e lo tengono in tasca questo titolo fino a che poi non viene svalutato alla metà e poi a 6 e poi a 0,1 euro per azione. Allora, Katie Mandurino del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Quali sono le ulteriori indagini? Perché tutta questa vicenda non l'abbiamo raccontata molte volte e insomma, sapevamo che su questo si sta muovendo la procura e quindi oggi... Sì, ma io partirei proprio da quello che hai detto un minuto fa a proposito dei finanziamenti che sono stati concessi per riacquistare le azioni, cioè questa operazione che viene chiamata operazione baciata è più di un'ipotesi, perché è una cosa che la BCE ha sottolineato, accertato, certo. E accertato e che è stata scritta nel prospetto informativo che la banca ha presentato nel momento in cui ha chiesto l'ammissione alla Consob, alla quotazione in Piazza Affari. Proprio questo valore, questi 975 milioni di euro sarebbero, questo ammontare di finanziamenti baciati, è su questo che la Procura di Vicenza sta facendo ulteriori quasi dati. Un miliardo, infatti, sì. Quasi un miliardo, ed è un miliardo che appunto è stato decurtato dal valore del patrimonio su direttiva della BCE e per cui poi è successa è crollato, diciamo così, tutta la banca, tutto l'aeroplanino, insomma. Esattamente. Queste nuove perquisizioni vanno sul solco, sulla scia di queste considerazioni della BCE. La differenza, la novità, diciamo così, perché non sono le prime perquisizioni che la banca subisce, è da un anno e mezzo circa che la Guardia di Finanza ha rapporti con la dirigenza, con i vertici, con l'ex CDA, con l'attuale CDA, che peraltro pochi minuti fa ha emesso un comunicato dicendo che c'è piena collaborazione nei confronti della Guardia di Finanza, dei militari, della Procura, eccetera. Però appunto la novità rispetto alle altre perquisizioni è che pare che questo nuovo mandato della Procura di Vicenza sia stato emesso nei confronti della banca, non di singoli individui. Finora iscritti nel registro degli indagati sono solamente in sei: Gianni Zonin, l'ex presidente Gianni Zonin, l'ex direttore generale Samuele Sorato, due ex consiglieri e i due ex vice direttori di Samuele Sorato. Per cui, ecco, la novità è un po' questa diciamo indagine a tutto tondo nei confronti della banca e il tentare di accertare delle responsabilità oggettive della banca. Dopodiché appunto il filone dei finanziamenti baciati è un po' uscito anche nei giorni scorsi, perché c'è stata un'interessante ordinanza del Tribunale di Venezia che ha un po' aperto uno squarcio per i risparmiatori. Qualche giorno fa il Tribunale di Venezia ha dato ragione ad un risparmiatore che aveva... Sì, l'abbiamo commentato, certo. Era un imprenditore anche, no? Un imprenditore, assolutamente, sì, si trattava di un'impresa. Ecco, quella nullità... Cioè ricordiamo, ha dichiarato nullo il prestito, nel senso che il Tribunale dice: siccome quel prestito tu l'hai ottenuto obtorto collo perché hai dovuto comprare delle azioni, adesso è nullo il tuo obbligo di rimborso. È una cosa importantissima, perché sì, vuol dire che crea un precedente su tutti quegli imprenditori o anche famiglie che hanno ottenuto un prestito dalla Popolare di Vicenza a patto che comprassero le azioni della Popolare di Vicenza stessa. E dice il Tribunale: siccome ti hanno obbligato a prendere le azioni, qui c'è stato un vizio, per cui il prestito non è valido e tu non glielo devi rimborsare in qualche modo. Non solo, ma il Tribunale di Venezia dice anche c'è una norma del Codice Civile, che è la 2358, che dice chiaramente che è vietato, cioè la società non può direttamente o indirettamente accordare prestiti per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, e che questo vale anche per le società cooperative. Quindi una chiarezza tale per cui i risparmiatori si possono veramente avvalere di questa ordinanza. Non è una sentenza, è un'ordinanza, perché siamo nell'ambito civile. Quindi probabilmente sulla scia anche di questa ordinanza è partito un altro filone, diciamo così, da parte della Procura di Vicenza. E quindi faccio notare che, l'abbiamo detto molte volte, è vero che a scatenare il crollo del castello di carte costruito da Zonin e Sorato, che si autoalimentava, cioè tu riuscivi a non mostrare i problemi della banca perché ponevi il prezzo dell'azione così in alto, in maniera così realistica, e avevi nuova liquidità. È il gioco dell'aeroplanino. Prima o poi qualcuno avrebbe detto: ma chi è che dice il re è nudo? Lo dice la Banca Centrale Europea. È vero che la Banca d'Italia manda le ispezioni anche negli anni prima, ma chi obbliga e fa crollare tutto la Popolare di Vicenza a rettificare, cioè a scrivere correttamente in bilancio, dire: no caro, tu non hai, tu hai molte più sofferenze di quello che scrivi, e non puoi considerare come attivi il fatto che i tuoi clienti si siano indebitati per comprare azioni della banca. Chi fa questo? È la Banca Centrale Europea. Ognuno si mette la mano sulla coscienza, anche la Banca d'Italia. Grazie, intanto mi sembra che la situazione si stia complicando comunque per gli ex vertici della Vicenza, Cati. Sì, decisamente sì. Ma... vedremo gli sviluppi, poi diciamo che adesso la situazione dei vertici, ma come sappiamo, è decisamente differente rispetto a prima. Gli ex vertici restano comunque indagati e vediamo se si aggiungono nuove imputazioni. Mi chiedono se c'è la possibilità di arresto. No, non penso in questi casi. Ma francamente non te lo so dire, nel senso che bisogna appunto verificare se c'è del dolo in determinate azioni. C'è da dire una cosa importante, che le operazioni baciate erano tutte operazioni che avevano bisogno dell'avallo dell'intero consiglio di amministrazione, cioè non delle singole persone. Non poteva il presidente, certo, decidere avallare una singola operazione baciata. Erano finanziamenti, diciamo così, che poi sappiamo che passavano anche attraverso fondi lussemburghesi, fondi maltesi, eccetera, che avevano bisogno di un avallo importante, cioè dell'avallo dell'intero consiglio di amministrazione. Quindi in questo caso il passaggio importante è che la Procura di Vicenza sta indagando sull'intera banca, cioè su un intero CDA e non sulle singole persone, è significativo, insomma, sposta un pochino il focus. È vero, ma è giusto anche perché siccome l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, i responsabili non sono solo il Presidente e l'amministratore delegato, ma anche i membri del Consiglio di Amministrazione stesso, e staremo a vedere, vedo tantissimi messaggi, anche adesso ci spostiamo come tema dalla Procura di Vicenza, passiamo invece a Veneto Banca, dove abbiamo sicuramente una vicenda molto simile nella distruzione della banca e nella distruzione del valore. Ricordo ogni volta, perché è giusto ricordarlo, 6 miliardi la Pop Vicenza, 5 miliardi Veneto Banca, 11 miliardi di distruzione vera di risparmi dei vicentini, dei trevisani che avevano comprato le azioni a quel livello. Purtroppo il caso Veneto Banca sta diventando una fotocopia anche nel tentativo di salvataggio. Come la Procura di Vicenza con i nuovi vertici ha indetto, ha annunciato un aumento di capitale che è andato in stragrande maggioranza deserto e quindi è dovuto intervenire il Fondo Atlante, domani scade l'aumento di capitale, la data ultima per l'aumento di capitale di Veneto Banca, e anche lì, visto che siamo all'1%, praticamente ormai è certo, dovrà intervenire il Fondo Atlante. Allora, io non commento mai da 16 anni che conduco questo programma la pubblicità, però siccome continuate a chiedermi della pubblicità di Veneto Banca, allora due cose: uno, fa la pubblicità che vuole e l'importante è che rispetti alcuni requisiti etici e quant'altro. Dopodiché la pubblicità di Veneto Banca che sentite sull'aumento di capitale, fanno bene a farla, stanno cercando il maggior numero di azionisti possibili e fanno bene soprattutto a farla Radio 24, ma è della nuova Veneto Banca, cioè non c'entra niente, è della nuova gestione dove stanno cercando, tanto non ce l'hanno fatta, di arrivare a sottoscrivere l'aumento di capitale. Fabio Pavesi, dacci ancora un minuto perché ho il traffico e poi ci racconti che cosa succederà, l'abbiamo già forse capito, ma soprattutto a sto punto con quanti soldi resta sto Fondo Atlante, che è partito già non con una dotazione enorme, ma se lei quasi tutta mangiata tra Veneto Banca e Popolare di Vicenza. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Oh, il sogno è facile, il sogno è che paghino, un sogno è che paghino tutti e che paghino anche in Veneto Banca, perché io ripeto, ho visto delle immagini di Consoli che vive tranquillamente nella sua villa pazzesca, paladiana, in provincia di Montebelluno, va benissimo, ma insomma, cioè, andiamo avanti, già si è perso molto tempo. Fabio Pavesi, sto bacio della questo per la battuta ce l'ho qua, non posso fare, ma queste operazioni baciate erano il bacio della morte per i correntisti di Veneto Banca e di Popolare di Vicenza. Beh sì, in effetti a pensarci bene è proprio così, altro che prestito baciato, era il bacio della morte, perché tu ottenevi un prestito se compravi azioni ipervalutate che non erano scambiabili. Cosa accade? Che quell'azione si svaluta E tu a quel punto lì probabilmente non restituisci i soldi alla banca, nel senso che quello è veramente un bacio alla morte per ambedue. Il risparmiatore è truffato perché gli è stata venuta un'azione a un valore assolutamente irrealistico che serviva a ricapitalizzare la banca. A quel punto il debitore non ripaga il prestito, tant'è che Vicenza e Veneto, anche lì c'erano i finanzianti cosiddetti baciati, hanno un cumulo di sofferenze pari alle peggiori banche italiane. Sono crediti dati che non sono rientrati, perché giustamente uno che ha comprato azioni a 62 euro se le trova a zero tende a non restituire il prestito. Ma non è che tende, a volte non ce la fa, perché se io per un prestito di 300.000 euro poni, ho dovuto comprare 50.000 euro d'azioni che valgono niente adesso, esattamente, ne ho già persi 50.000, e tutti gli interessi di Venezia del tuo sta dicendo: attenzione, se tu hai ricevuto il prestito a fronte di un finanziamento che è andato a zero, obbligato, hai tutto obbligato a sottoscrivere un finanziamento, hai tutto il diritto, tra virgolette, a non restituire i soldi alla banca, quindi un vero circolo vizioso. Venendo a Veneto Bank, beh, la storia è veramente la stessa. Avevamo profetizzato che sarebbe stato difficile la quotazione di Veneto Bank, nonostante l'impegno di questi cosiddetti soci forti che volevano a tutti i costi risollevare la banca, avere il 25% del capitale. Questa cosa non è avvenuta, anche perché facciamo due conti a spanne. Per ogni azione a 0,1 venivano date, per un'azione vecchia, valutata a 40 euro, poi scesa ovviamente azzerata, venivano date 81 azioni allo 0,1 euro. Uno che ha 1.000 azioni avrebbe dovuto sborsare 8.000 euro per partecipare all'aumento di capitale. Ma uno che ha perso tutto e che ha un pacchetto minimo di 1.000 azioni, perché deve mettere altri 8.000 euro in una banca che ti dimostra che è in crisi di liquidità? Nel prospetto informativo è stato scritto due giorni fa, nel supplemento al prospetto, che la banca non ha i requisiti di liquidità idonei a fronteggiare la situazione, è scesa sotto i requisiti regolamentari, perché c'è fuga di liquidità dalla banca. La banca ha sofferenza pari al 30% dei crediti. Allora uno si chiede: ma era realistico pensare che chi è stato bruciato dia di nuovo soldi a una banca che tuttora, per le cose fatte da Consul e dal vecchio consiglio di amministrazione, è una crisi gravissima? Era impensabile questa cosa. Sì, poi uno giustamente fa l'obbligità, però non dobbiamo dire le cose come stanno. E il tema adesso si sposta, a mio avviso, sul Fondo Atlante. La battuta che fanno gli ascoltatori è facile: più che Fondo Atlante si sta per chiamare Fondo Atlantide. Qualcuno dice fra un po' arriverà il fondo Ercole, perché, insomma, o Titano, insomma, senza rievocare la mitologia greca, qui insomma la situazione diventa difficile. Noi abbiamo fatto il calcolo che, se, come è straprobabile, Atlante dovrà intervenire anche per garantire l'aumento di capitale, cioè mettere i soldi anche su Veneto Banca, a sto punto gli resteranno in portafoglio solo 500 milioni. Sì, poco di più, perché in realtà la dotazione è di 4 miliardi, ne ha spesi 1,5 per Vicenza, ne spenderà 1 per Veneto, rimane 1,5 miliardi, mal contato. Il tema è che Atlante di fatto è servita a salvare due banche venete, questo è il dato di fatto di sostanza. Dovrà ripartire da zero, tant'è che il presidente Penati ha detto poche settimane fa che occorrerà fare un Atlante 2, nel senso ha fatto un Atlante dedicato solo alle sofferenze, perché evidentemente questa dotazione non basta, nonostante gli esperti parlino di leve, dicano che quei 2 miliardi muoverebbero acquisti di sofferenze per 10 volte tanto, siamo a 20 miliardi. Però sono esercizi accademici. Allora, anche qua la storia è nota, cioè all'inizio erano Unicredito e Intesa che si erano ripromesse a ottobre dell'anno scorso di salvare le due banche. Cioè quello che non sarebbe stato dato dai correntisti, dai clienti, esattamente, l'avrebbero però messo Intesa e Unicredito. Cosa Intesa succede? Poi si è sfilata. Si sono sfilate tutte e due per un semplice fatto banale. A novembre la situazione era quello che era, a gennaio crollano le banche in Italia, questo va ricordato. A questo punto Intesa e Unicredito si fanno due calcoli e dicono: ma perché io devo rischiare molto per salvare banche che mi portano in pancia crediti malati per il tesoretto del portafoglio? Chiamano soccorso ovviamente alle autorità, al governo, e si inventa Atlante, perché Unicredito e Intesa sottoscrivono le quote maggiori di Atlante, non possono fare il doppio sacrificio, mettere i soldi in Atlante e in più salvare, certo, le banche venete. Quindi la soluzione di Atlante è nata veramente per salvare due banche venete, questo è il dato di fatto di sostanza, e così è avvenuto. Il tema che rimane sullo sfondo è, a questo punto, il grande problema delle sofferenze, quegli 83 miliardi di sofferenze ente che gravano sui bilanci di tutte le banche italiane. Come lo risolveremo? Punto e domanda. E questa è la grana che rimane in capo al governo per i prossimi mesi. Questa è la realtà. Ultima domanda che ho per te. Ma a questo punto, come chiedono molti ascoltatori, ma visto che il Fondo Atlante di Penati avrà sia Veneto Banca che Popolare di Vicenza, andrà verso una fusione delle due? È probabile, credo che Penati l'ha detto chiaramente, dice: io voglio avere la maggioranza del capitale per avere le mani libere. Cioè, in questa situazione le due banche vanno ristrutturate completamente. Si pensa anche a una fusione, sperando non sia una fusione tra malati, nel senso sia Vicenza e Veneto, ripeto, hanno crisi di liquidità, Veneto Banca è grave. Vediamo se sarà sanata dall'aumento di capitale. Ricordo, Veneto Banca non ha pagato una cedola a dicembre 2015 di un subordinato. Poteva farlo perché c'era scritto nel prospetto che se il capitale non era sufficiente, non lo era, si poteva evitare di pagare una cedola. Però ha mancato il pagamento di una cedola a Veneto Banca. È scritto esplicitamente nel prospetto informativo. E Standard & Poor's ha portato il rating in quell'obbligazione a D, che vuol dire default. Non è un evento di default che avrebbe comportato ovviamente il default della banca, però ti dice di come era grave la situazione di Veneto Banca, che non c'erano i soldi per pagare una cedola su un bond a 200 milioni a dicembre 2015. E due giorni fa la Consob ha pubblicato il supplemento in cui dice che la liquidità è sotto il parametro del 70%, vuol dire che non ha liquidità sufficiente nei prossimi 30 giorni a coprire le uscite di capitale. Quindi la situazione è veramente grave. Ovvio che Atlante dovrà farsi carico di questo bubbone e poi andrà uno sposalizio fra le due. Sì. Sì, situazione grave, lo dico, però sto vedendo molti messaggi che arrivano, ma alcuni scrivono: ma non conveniva a questo punto, non converrebbe a questo punto fare fallire queste due banche? Attenzione, attenzione, perché qua stiamo già commentando il danno, la distruzione vera, non è un danno, un calo di borsa, che finché non vendi la perdita non te la porti a casa. Qui i soldi li hanno già persi, 11 miliardi di azioni tra Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Se non si fosse fatta questa operazione, sì, si sarebbe arrivato al fallimento delle banche, ma lì auguri, ragazzi, c'è il bail-in, per cui vuol dire che bail-in non è quello genovese, anche se ci assomiglia, vuol dire che in caso di fallimento della banca i primi a pagare erano gli azionisti, non ci sono più, gli obbligazionisti che invece ancora non hanno pagato avrebbero pagato, cioè chi detiene azioni della Popolare di Vicenza, obbligazioni della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, e poi avrebbero pagato anche tutti i correntisti sopra la parte dei 100.000 euro. Ma stiamo scherzando? Voglio dire, se qui siamo di fronte a un danno enorme, lì avremmo avuto una tragedia. Non scherziamo nemmeno sul fatto, volete immaginare che tutti i correntisti di Veneto Banca e Popolare di Vicenza sopra i 100.000 euro, l'unica parte garantita è quella fino a 100.000, cioè con l'ondata di panico che poi si sarebbe scatenata su tutte le altre banche, a maggior ragione quelle che sono già in difficoltà. Per favore, abbiamo già visto cosa è successo nel non saper gestire a fine novembre le quattro banchette, che erano banchette come peso, che ondata di panico hanno scatenato. Per cui ci manca solo un'altra variabile sistemica. Dopo, nel ringraziare Fabio Pavesi, invece, dopo il GR24 parleremo di variabili sistemiche, perché torneremo a parlare anche di Brexit, oltre che commentare la borsa, che comunque anche oggi ha portato a casa, non come ieri, ma uno 0,50% Milano, 0,60% Parigi e mezzo punto percentuale anche Francoforte. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, GR24. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Assicom. Vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Tensione, sfida, traguardo, ripasso, rito, emozione, ansia. In poche parole, maturità. A Radio 24 torna la notte prima degli esami. Sono Federico Taddia e vi aspetto martedì 21 giugno dalle 21 alle 24 insieme alla cantante Chiara De Lo Iacovo. Notte prima degli esami, notte di aritmia. Tre ore in diretta con le voci dei maturandi, i racconti dei personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura e i ricordi degli ascoltatori. La notte prima degli esami, una notte di passione. Info su radio24.it in collaborazione con scuola.net. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora commentiamo la borsa oggi, giornata non di quelle memorabili. Il peggior titolo CNH Industrial meno 2,44, Terna meno 1,70, Monte dei Paschi meno 1,5 come Tenaris. L'1,20 lo perdono le Poste Italiane, l'1,1 Salvatore Ferragamo e Telecom Italia, l'1% il caro di Moncler e di Ferrari, lo 0,90 quello di Prysmian e A2A. Saipem più 3,33, Popolare Emilia Romagna più 2,56, Intesa San Paolo più 2,5 come UbiBanca, Generali più 1,80, Iux più 1,40, Mediobanca più 1,30%. E parliamo di borsa come sempre con Radio Cori, Sole 24 Ore. Ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Dunque, tutte abbastanza positive le borse, poi parleremo con Mario Platero tra pochi minuti di... del discorso della numero uno della Federal Reserve, Janet Yellen, e anche di Draghi, di quanto ha detto oggi Draghi. Detto questo, Tenaris e altri titoli non capisco. Saipem più 3,3 mentre Tenaris era più al palo oggi. Sì, diciamo che oggi è stata una giornata difficile per alcuni petroliferi, il caso di Tenaris a Milano, di Technip che fa lo stesso mestiere di Tenaris a Parigi, principalmente per il calo del prezzo del greggio. Per altri petroliferi, come ricordavi tu, invece la giornata è stata positiva, sia per Eni, che peraltro oggi ha annunciato sostanzialmente il fallimento delle trattative per la cessione di Versalis a SK Capital, sia soprattutto per Saipem che è in rialzo del 3,3%, qui c'entrano le indiscrezioni su una prossima emissione obbligazionaria di Saipem per 1,5 miliardi. Ricordiamo che Saipem contestualmente all'ultimo aumento di capitale da 3,5 miliardi aveva ottenuto anche ingenti prestiti bancari, uno di questi era proprio pari a 1,5 miliardi e Saipem l'avrebbe dovuto rifinanziare con un bond nei mesi successivi. Ebbene, questo bond sta arrivando e la comunità finanziaria l'ha interpretato positivamente come diciamo il fatto che Saipem stia via via riguadagnando credibilità sui mercati. Per quello che riguarda invece i titoli, c'erano stati molti movimenti ieri su Rizzoli Corriere della Sera, perché come abbiamo spiegato nel fine settimana c'era stata la controfferta di Urbano Caio e ci si attende un'eventuale controfferta anche da parte di Bonomi. Su questo oggi vi segnalo anche, riguarda chiaramente il Sole 24 Ore e chi vi parla, c'è una dichiarazione dell'amministratore delegato, del neo amministratore delegato del Sole 24 Ore, Gabriele Del Torchio. Cioè, a margine di un convegno qui al Sole 24 Ore gli è stato chiesto se può immaginare una fusione tra il gruppo Rizzoli Corriere della Sera e il gruppo Sole 24 Ore. Del Torchio ha detto la escluderei. Questo non fa parte del programma, io credo che Sole 24 Ore abbia tutte le caratteristiche per continuare a crescere, per continuare ad essere un punto di eccellenza nel panorama dell'editoria italiana, un punto soprattutto ricchissimo di contenuti. Questa è un'azienda con tutte le sue varie declinazioni, la scuola, la formazione appunto, ma il giornale, ma il digitale, che ha dei contenuti, le banche dati, che ha dei contenuti veramente di assoluta eccellenza. Quindi questo io lo escluderei. E allora andiamo sulle banche invece. Oggi mi sembra tutte ben intonate. Cos'è la Brexit ancora? Beh sì, diciamo che è un comparto che ha perso molto terreno. Per esempio Intesa San Paolo era scesa addirittura sotto quota 2 euro, oggi Intesa riguadagna il 2,5%, poi vanno bene le popolari, va bene Ubi, c'è forte attesa per il piano industriale che sarà presentato lunedì prossimo, va bene anche il Banco Popolare, seppur comunque sotto i massimi di seduta, chiude a più 0,3%, qui c'è anche il fatto che sarebbe arrivato il primo via libera della BCE alla fusione con la Banca Popolare. Popolare di Milano. A2A, perché qui su alcune partecipate, penso da CEA, l'abbiamo commentata ieri, ma anche su A2A, visto che è controllata dai comuni di Milano e Brescia, il risultato dell'amministrativa un po' conta. Sì, Sì, premettiamo che è stata una giornata difficile per molti utility, al di là di A2A, anche SNAM è in calo di mezzo punto, tuttavia per quanto riguarda A2A è controllata al 50% pariteticamente, quindi al 25% dal comune di Brescia e al 25% dal comune di Milano. C'è l'idea da parte delle amministrazioni di cedere ulteriori quote per fare cassa, tanto comunque il controllo di una società simile si tiene anche col 40% se non col 30%. Diciamo che il nuovo sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non si era mai opposto a un eventuale alleggerimento dell'amministrazione nel capitale. Brescia sarebbe già di per sé favorevole a farle, quindi gli operatori con il titolo in ribasso già scontano, magari con il rinnovo dei patti di fine settembre della società, un possibile alleggerimento della quota del comune. Allora, per quello che riguarda alcuni messaggi, mi sta insultando un ascoltatore. Io non ho mai detto che i soldi dei risparmiatori delle banche più piccole, Etruria, Ferrara, Chieti e Marche, valgano meno e siano meno importanti della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Ma abbiamo fatto decine di puntate su Etruria e continueremo a farlo ogni volta che vi saranno notizie nuove. Ho solo detto che per quattro banche di dimensioni minori, in effetti lì in tutto sono saltati, se non ricordo male, 5 miliardi di euro, perché il conto totale tra le quattro banche di fine novembre e Veneto Banca e Vicenza fa 16 miliardi, cioè quasi una manovra finanziaria. Ho solo detto che se per quattro banche con un importo minore si è sviluppato quel panico a fine novembre, immaginate cosa potrebbe succedere o cosa sarebbe successo se avessero fatto fallire Veneto Banca e Popolare di Vicenza, ognuna delle quali valeva come danno le quattro banche. Dopodiché le vicende sono abbastanza diverse. Nel senso che le quattro banche avevano un problema di obbligazioni, ma non solo. Su Veneto Banca e Popolare di Vicenza c'è stato anche il tema ancora più grave degli aumenti di capitale fatti a un prezzo, diciamo, visto che non erano quotate, a un prezzo del titolo assolutamente fuori da ogni logica. Tutto qua, ma ci tenevo a precisarlo. Andiamo avanti con i migliori e peggiori della giornata. Anima Holding più 5,50, Adventure Group più 4,90, Piteco più 4,30. Fronte opposto, Italia Independent meno 14%, Agronomia meno 5,50%. Grazie a Ceo Conni, a Radio Cori, il Sole 24 Ore. I just hope in the money, money, money, money, money. Love me, honey. I just hope in the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. Allora, ogni tanto in queste giornate abbastanza attese e cupe, qualche piacere uno lo ottiene. Per esempio avere Mario Platero, invece che in collegamento da New York, dove fa la bella vita, qui al Sole 24 Ore negli studi. Buonasera Mario, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Buonasera Sebastiano. Da quanti anni è che sei corrispondente degli Stati Uniti? Ma non credo che si siano perse, non le, paura, tracce. Non, si sono perse le tracce. Si sono perse, allora, le tracce. Allora, parleremo di Janet Yellen e di Mario Draghi. Vorrei farvi ascoltare però alcune degli un intervento in primo luogo. Oggi c'è stata la firma di un accordo tra Intesa San Paolo e Gruppo Sole 24 Ore. Ecco perché abbiamo preso a margine la dichiarazione di Gabriele Del Torchio, che smentisce ogni ipotesi di fusione Sole 24 Ore e Corriere della Sera. Ma dicevo, un accordo tra Intesa San Paolo e Sole 24 Ore per realizzare corsi di formazione. Se parliamo anche di noi per due minuti, abbiate pazienza, delle giovani generazioni e dei manager di impresa. Ha spiegato l'obiettivo di questo accordo Stefano Barrese, che è responsabile della divisione banca dei territori di Intesa San Paolo, intervistato e quindi al microfono della nostra Anna Marino. L'accordo ha come punto, diciamo, fondante sviluppare insieme questi, a noi piace chiamarli non tanto corsi ma percorsi formativi. Vogliamo coprire di fatto sostanzialmente tutta quanta la platea, dai giovanissimi fino anche agli adulti, per creare una cultura più ampia del fare, che può essere fare impresa, fare mestieri o anche saper fare i manager, che è una cosa di cui le nostre piccole e medie imprese hanno tantissimo bisogno. Quali sono le misure che volete mettere in atto proprio per realizzare questo fine? Le misure sono questi corsi di formazione che renderemo disponibili attraverso la partnership con il Sole 24 Ore, andranno a abilitare delle iniziative che sono già in essere della banca, ma con grandissime sinergie con tutto il mondo del master che il Sole 24 Ore ha già in essere. Metteremo a disposizione le 6 sedi del Sole 24 Ore sul territorio, che si affiancheranno a oltre 250 filiali del gruppo, che anche mediante il nuovo modello consentono di portare la formazione sui punti più capillari del territorio. Avete anche fatto di recente alcune innovazioni sulle filiali digitali? Sì, allora, le nostre filiali nel nuovo modello hanno spazi che riescono a mixare il fisico con il digitale. Peraltro dal 6 giugno sono filiali completamente paperless. Attraverso l'introduzione massiva della firma digitale ed elettronica, di fatto scompare la carta dalle nostre filiali. L'80% della nostra offerta è già completamente integrato sui diversi canali, e nelle nuove filiali in realtà abbiamo anche creato degli spazi che sono già predisposti per poter fare attività come quella che oggi andiamo a siglare insieme al Sole 24 Ore, di carattere informativo e formativo. E queste le belle notizie. Dopo il traffico invece iniziamo a capire che cosa preoccupa anche oggi molto molto preoccupata Janet Yellen, e ascolteremo sia lei in rientro che Mario Draghi. Il tema è sempre la Brexit, da qua a venerdì non dico che non avremo altri temi, ma insomma sarà sicuramente il principale. Focus Economia. I just hope in the money, money, money, money, money. Love me, honey. I just hope in the money, money, money, money, money. Love me, honey. Considerable uncertainty about the economic outlook remains. Permangono significative incertezze sullo scenario della nostra economia. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e il ritmo debole degli investimenti rappresentano rischi al ribasso. Sebbene io sia ottimista sulle prospettive a lungo termine dell'economia statunitense, non possiamo non tener conto della possibilità, prospettata da importanti economisti, che la bassa produttività vista negli ultimi anni continuerà anche in futuro. Vulnerabilità persistono nell'economia mondiale. La Cina continua a trovarsi davanti considerevoli sfide per riequilibrare la sua economia. Nell'attuale contesto di crescita debole, bassa inflazione e una politica monetaria molto accomodante in diverse economie avanzate, le percezioni degli investitori e l'appetito per il rischio possono cambiare rapidamente. Uno degli sviluppi che può farsi sentire sugli investitori è il referendum in Gran Bretagna. Un voto per un'uscita dall'Unione Europea avrebbe significative ripercussioni economiche. Per tutti questi motivi, la Fed monitora gli sviluppi economici e finanziari globali e le loro implicazioni sull'economia americana. The ECB is ready for all contingencies following the UK's EU referendum. La Banca Centrale Europea è pronta a tutte le eventualità a seguito del referendum nel Regno Unito sulla permanenza nell'Unione Europea. È difficile prevedere le varie dimensioni con cui il voto britannico impatterà sul mercato e sull'economia della zona euro. È anche difficile speculare su un risultato o su un altro. Quindi dico solo che siamo pronti ad affrontare tutte le possibili eventualità. Attualmente è difficile essere più precisi di così, ma per ora sono stati fatti tutti i preparativi necessari. Tant'è che venerdì mattina ci sarà anche una riunione ristretta dei vertici europei, tutte le banche centrali, quelle asiatiche, saranno le prime coinvolte, probabilmente, perché non capiamo ancora se il dato arriverà entro le 6, 7, 8, addirittura le 9, 10 di mattina. Mario Platero, le preoccupazioni americane, perché paradossalmente qualcuno ci ha scritto, ma insomma, se la Gran Bretagna esce dall'Unione Europea, dovesse uscire dall'Unione Europea, rafforzerebbe ulteriormente il famoso asse atlantico, la special friendship, se non ricordo male si chiama, rapporto speciale tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Eppure gli Stati Uniti tutto vogliono tranne che la Gran Bretagna esca dall'Unione Europea. Assolutamente, sì, no, non voglio, cioè sono veramente molto molto preoccupati, E ti dirò, dalle dichiarazioni della Yellen di oggi abbiamo sentito preoccupazione anche per l'instabilità dei mercati. Lei ha parlato specificatamente di Brexit, cosa che non è usuale ovviamente per un governatore della banca centrale americana intervenire su un evento politico tutto sommato che riguarda un altro paese. Eppure è stata molto chiara nella sua audizione di questa mattina davanti alla Commissione Finanza del Senato, e ha detto che Brexit preoccupa l'America, preoccupa la Banca Centrale Europea, al punto che una componente non secondaria per la decisione di non aumentare subito i tassi è da attribuirsi proprio a Brexit e al rischio di instabilità dei mercati, cosa che peraltro ha detto anche Mario Draghi nelle dichiarazioni che abbiamo sentito poco fa. Quindi il primo elemento è quello, l'ultima cosa che si vuole è una instabilità dei mercati, che quando si parte si sa dove parte e non si sa dove arriva. La stessa Yellen ha parlato di fragilità delle economie mondiali, la crescita americana che annaspa un pochino, quella cinese che ha bisogno di riequilibrarsi, insomma la prima preoccupazione è quella, è proprio una preoccupazione di tipo finanziario. La seconda preoccupazione è una preoccupazione aziendale. Ci sono le aziende americane che sono terrorizzate dall'idea del Brexit, perché molte di loro hanno sedi a Londra, non sanno come dovranno gestire il loro futuro, molte hanno i quartieri generali proprio a Londra, quindi li cambia completamente la dinamica, al punto che pensa, la Ford ha mandato 14.000 lettere, esatto, ai dipendenti e Jamie Dimon ne ha mandato 4.000. Però facciamo capire perché uno dice, vabbè, ma le banche d'affari americane hanno la sede a Londra e potrebbero continuare a operare tranquillamente dalla sede londinese. Il problema è che per loro quella sede è la sede europea, non è la sede londinese. Esatto, la sede europea è una sede che tra l'altro opera in un contesto europeo aperto. Se cambiano le regole non si sa che cosa resta di quella loro possibilità di lavorare nel contesto europeo, e tra l'altro questo è un problema vero e proprio per Londra, perché Londra è la capitale finanziaria europea tutto sommato. Ma c'è un terzo elemento oltre a quello aziendale e quello più strettamente finanziario, ed è l'elemento, diciamo, politico e di economia vista nel contesto più di me, cioè il multilateralismo. L'America ha costruito dalla seconda guerra mondiale in avanti, addirittura dalla fine della prima guerra mondiale ci ha provato, ma dalla seconda in avanti, un sistema multilaterale in cui c'è un sistema di egemonia e consenso, in cui si costruisce il sistema multilaterale. Ecco, questo sistema multilaterale è sotto attacco da più parti, anche all'interno degli Stati Uniti. Trump è contro il multilateralismo nel senso più lato del termine. Ecco, un voto dalla Gran Bretagna, che è il simbolo, se vogliamo, del multilateralismo in Europa, che aiuta l'Europa a controbilanciare le tendenze più stataliste magari della Germania, della Francia, anche dell'Italia. Anche egemoniche, oltre che stataliste. Germania. Esatto, esattamente. È un grosso contrappeso, e sappiamo i problemi che gli Stati Uniti hanno avuto con la Germania. Tu l'hai ripetuto mille volte, l'abbiamo ripetuto qui, per l'ossessione con l'austerità. Ecco, tutto questo insieme preoccupa, ma secondo me sul piano politico l'aspetto del multilateralismo e del danno che viene dal multilateralismo, Brexit è un elemento, però è la notizia, avrà un impatto sui mercati e darà fiato alle trombe di chi preme per la disintegrazione invece che per l'integrazione. Ma la Yellen dovrebbe essere più preoccupata della Brexit o di una vittoria di Trump? Beh, innanzitutto the Brexit, perché è il primo... il primo appuntamento, perché è chiaro che Trump cavalcherebbe un voto positivo di Brexit, direbbe, ecco, vedete, in Gran Bretagna i nostri cugini hanno scelto la via dell'autonomia, noi dobbiamo chiuderci, eccetera eccetera. È preoccupata naturalmente da Trump, come lo sono tutti, anche se devo dirti Trump sta mostrando delle debolezze piuttosto forti in questi ultimi tempi, e in generale si crede veramente, una sensazione che è emersa nelle ultime settimane. Ieri mattina era al Council of Foreign Relations, ancora a New York, e c'era un incontro con vari personaggi, tra cui Michael Froman, che è il capo negoziatore commerciale. Insomma, l'ipotesi Trump è un'ipotesi che preoccupa, ma che è vista con un certo distacco, perché non ha la struttura, non ha il fiato, è autolesionista. Non è che tu, la domanda non è una battuta, che tu percepisca molto l'aria di New York, della costa est, della parte, e invece sappiamo che è il Midwest, cioè la pancia, la prateria americana, che vota Trump. C'è una prateria americana che vota Trump, sicuramente, tant'è vero che ti dirò, parlando con delle persone, non è che non le veda, ho visto uno del Montana, questo signore del Montana, che è un ex Goldman Sachs, ha avuto un enorme successo, un'impresa molto importante, continuava a dire I'm a schoolboy from Montana, quindi sono un ragazzino che ha studiato nella scuola pubblica del Montana, e posso dirti che Trump va alla grande. Ecco, è vero, ma era vero fino a un paio di settimane fa. Qualcosa è cambiato con la posizione di Trump sul giudice messicano, quando ha attaccato questo giudice per essere messicano, e per le posizioni molto dure che ha preso. Perché? Perché sono posizioni che vanno contro i valori di fondo dell'America, e su quelli sono tutti d'accordo, inclusi gli schoolboy del Montana. Grazie a Mario Platero, che possiamo toccare oggi con mano, grazie, poi lo riavremo in collegamento. Da New York è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.